si accende un fuoco, vale la pena amore, col tuo sorriso normale, speciale, m'alzo all'alba e tu sei incinta amore mio, e mangio immensa, resto al mondo a modo mio. Stelle su stelle che toglie il respiro, starle lì a contare. Ci sono parole da dire, che manca la voce, non le puoi pronunciare. E perdo tempo intorno al mondo, cerco sconti a modo mio, questo stare, aspettare di andare. E mazzo all'alba, e tu sei incinta bimba mia. Corro in cerca di non è questa malattia. Ladies and gentlemen, your DJ for tonight has spent hours setting up his lights. He's spent ages performing sound checks, and he's refrained from touching the buffet. Yet. He's keeping reasonably sober and is prepared to play just about anything you care to ask for. Get ready for a very special night and party celebration. Thank you. Buonasera gentili ascoltatori e ascoltatrici di Radio Noise, benvenuti a questa nuova puntata, questa sera a San Valentino e noi ovviamente faremo la dedica a San Valentino, una serata romantica, intanto il pubblico qua già è un poco molesto, ma insomma introduco perché come detto sul flyer a cura di Spat Design, questa sera ospiti in studio un po' di gente. Non lo dire. Eh? Non lo dire che è meglio. Perché non lo devo dire? È proprio tamarro come flyer. Proprio in tema. È giusto che sia in tema e che sia tamarro, voglio dire. Vai. E quindi la prima persona che ha parlato, insomma, stasera un sacco di ospiti in studio. Abbiamo un po' di gente, abbiamo anche le cheerleader che, insomma, ascoltano attentamente. Ok, mi è stato appena detto che cheerleader chiamerò mia sorella, quindi appena... Vabbè, insomma, quindi introduciamo gli ospiti di studio questa sera. Avremo, che ci darà anche una mano dal punto di vista logistico e dal punto di vista strutturale, di aiuti, insomma, chicche, notizie, eccetera, eccetera. Diamo il benvenuto a Robby il Vecchio. Quindi ciao, buonasera, buonasera. Attaccati al microfono. Ok, adesso ci sente... Robby il Vecchio che stasera ci darà una mano, insomma, faccio quello che posso. Farà quello che può. E bravo. Poi diamo il benvenuto, eh? Si sente. Diamo il benvenuto. Ah, io ho già dimenticato il tuo nome. Ah, diamo il benvenuto a Mr. Wolf che risolverà. Ciao. No, devi mettere il microfono dritto. Ciao. Esatto. Diamo il benvenuto a Mr. Wolf che ha già risolto dei problemi questa sera, quindi continuerà a risolvere dei problemi. Sì, continuerà a risolvere dei problemi importanti. E poi ospite, un altro ospite studio che è stato già ospite, Mr. Chucky. Buonasera, questo è il saluto che si fa dal pianeta dal quale sono appena tornato. È stata una bella esperienza, sì. Sì, ti vediamo, non si so, paga abbronzato. Il pedaggio sull'autostrada, ecco. Non abbiamo autostrade. Zero autostrade si paga. Si vola là, no? Non si paga. Si vola lì. Ce l'avete. No, a piedi, no. Non ci sono neanche le macchine. Sono state costruite autostrade senza poter utilizzare macchine. Ah, interessante. Sono state inventate. Chili e chili di asfalto utilizzati buttati, così. Buttati persi, via. Ai venti. E penso a certi polpacci tutti quanti. Certo, no? Certo. Non abbiamo neanche i polpacci sul nostro pianeta. Zero polpacci. No. Partiamo dalle ginocchia. Allora, stasera puntata dedicata ai gruppi italiani, Italians Do It Better. Prima puntata dedicata ai gruppi italiani degli anni 90. Quindi faremo un giro negli anni 90 nei gruppi più o meno più importanti mainstream, appunto, come suggerisce Mr. Wolf, che ha già risolto un altro mainstream problema. Ha già risolto un altro problema. Quindi faremo una carrellata di gruppi più o meno famosi, più o meno conosciuti, magari qualcuno ve lo siete anche dimenticato e siamo qui apposta per ricordarvelo. È così che io rido perché ovviamente con la situazione inizia a scaldarsi già da subito. E che ve lo dica a fare? Quindi prima di partire, radionoise@hotmail.it per aggiungere il contatto MSN e poi c'è il profilo Facebook, Radio Noise Webcast, se volete aggiungere il profilo così diventiamo amici, già tanti sono gli amici. Vi ricordo voi che state ascoltando di entrare in chat, collegarvi. Io poi, no, voi però, allora, io quasi inizio a ridere, io non è che posso... Vabbè, insomma, partiamo con il primo scusa. Niente, non si tengono. Sono già molesti da subito. Vabbè, okay. Partiamo con il microfono. Allora, gruppi degli anni 90, stasera ascolteremo io se riusciremo a farlo. La situazione inizia a diventare complicata e calda già da adesso. Quindi, se dalla chat non c'è nessuna notizia. Noi partiamo 1990. Loro sono i Litfiba e questo è un pezzo che conoscete molti. Funerale, chi muore sul luogo Allora, siamo contenti di sapere che a Roberto IV, come ormai l'ho nominato, piace questo elemento. Ci ha commentato, insomma, anche se non entra in chat perché sennò non riesce a lavorare, però ci sta ascoltando e questo ci fa piacere, questa è la cosa importante. Allora, loro erano in Litfiba, insomma, noi partiamo alla grande con il Litfiba, come appunto ha detto Roberto, perché questa sera, serata dedicata a gruppi mainstream italiani degli anni 90. Poi magari se riusciremo ascolteremo anche, insomma, faremo una carrellata anche un po' nostalgica, se vogliamo, parlando di telefilm di quegli anni, di cosa è successo anche, sì, MacGyver per esempio, che è stato già nominato. Insomma, parleremo un po' di un po' di gruppi, di un po' di gruppi, di un po' di persone, un po' di chicche ci saranno, insomma. Abbiamo uno scoop perché noi ascoltiamo un altro pezzo subito dei Litfiba. Chiaramente questa sera Radio Noiz andrà oltre le 11:30 perché insomma i pezzi sono tanti. Ci farei una grande chiacchierata, un po' di delirio assicurato sicuramente. Questa me la passi. E no, intanto c'è Robby il Vecchio che sta leggendo e non capisco che... Ma io sto facendo una cultura qua. Qua faccela fare anche a noi la cultura. Sì, tra un po'. Tra un po', ok. Mi segno le migliori cazzate che trovo sul web e poi... Allora, mentre Robby il Vecchio si segna le migliori cazzate che trova sul web, io vorrei, perché tra l'altro, ecco, la prima chicca... Mister Chucky inizia a dare delle indicazioni, a creare un poco di sgomento qua in sala, vabbè. Allora, prima di partire con l'altro pezzo dei Litfiba, questa è la prima chicca della serata. La prima chicca, abbiamo al telefono Piero Pellù. Buonasera Piero. Come andiamo? Bene. Abbiamo parlato bene di questa radio. Sì, abbiamo mandato un pezzo, hai sentito? L'abbiamo sentito? No, perché bevevo, non l'ho sentito, però mi sa che è una gran radio. Ma da dove ci chiami? Da un cesso sull'autogrill, sulla Firenze Roma. Stavamo in giro con gli amichetti a bere per autogrill. C'è Ghigo pure. No, tu lo sai che fra un po' non distribuiranno più l'alcol sull'autogrill, però. Ma lo portiamo da casa, quindi il problema è eliminato alla fonte, al principio. Adesso sto parlando con un rotolo di Scottex in bocca perché abbiamo bevuto troppo, dunque è del buon vino, sì. È del buon vino. Alla grande. Allora, Piero, se vuoi, visto che hai fatto questa... E negli ultimi 6 mesi sono stato a Milano, non so se si sente. ho dimenticato la mia lingua, il fiorentino, abbracciato i milanesi. Com'è Milano? È una merda. Ok, perfetto. È grigia, molto grigia. Allora, se vuoi introdurre il prossimo pezzo visto abbiamo così scritto questo pezzo fighissimo del Diablo un po' di anni fa. Adesso lo mandano ancora per radio, significa che era un gran pezzo. E allora fatelo ascoltare alla bella gente che ascolta Radio Noise. Enjoy! Siamo tornati sempre in onda, questo era il Diablo dell'Itfiba, mentre noi percorriamo questi anni 90, questi anni anche un po' tamarri se vogliamo. E a proposito di tamarranza, tra l'altro, visto che intanto salutiamo Sasso che ci ha raggiunto in chat e che sta chiacchierando per noi. che si è pigiamato per noi con i cuoricini, con gli orsacchiotti con i cuoricini, sì. E che sta chiamando rinforzi, tra l'altro, ha detto, quindi aspettiamo rinforzi. Chissà perché, forse ci vuole croscare un po'. Ma piano piano daremo un po' di informazioni. Sì, allora tu che sei sulla stessa pagina da un'ora, per mi dai. No, appunto, prima hai detto che la puntata è un po' tamarra e volevo cominciare definendo il termine tamarro. Ah, giusto, definire il termine tamarro. Qua diciamo che tamarro è un termine della lingua italiana utilizzata per indicare una persona ritenuta rozza o comunque non stimabile. Ed il suo utilizzo assume sovente un'eccezione ironico-sarcastica. Questo per, insomma, definire. E deriva niente meno dall'arabo tamar, che significa vendere datteri. Ma non so qual è la storia. Comunque, quindi, insomma, ho visto solo tamar ripicchiare la gente e basta. Vabbè, ma diciamo che stasera è più il tamarro come, ecco, come non da quel tamarro punto buono. Stile di vita. Tamarro buono, sì, diciamo come stile di vita. E visto che Roberto ci ha segnalato, che non entra in chat, però ci ha segnalato un qualcosa, insomma, da sentire. No, non è Roberto Quarto, no. Ma è stata Lidia. Ah, è stata lì, Lidia Agliucci, insomma, che ci ha messo un link di un messaggio, visto che stasera mentre lui disturba, Mr. Chucky disturba, tu non devi disturbare perché qua se no si crea il panico assoluto. Allora, quindi Lidia ci ha, visto che stasera è San Valentino, e salute a voi che ci state ascoltando, a noi in studio, salute alle cheerleader che si stanno affogando, vabbè, non si sa. Sì, no, è stasera. Allora, visto che stasera è Sei fermato. Vai avanti tu, lascia stare. Visto che stasera è San Valentino, allora Lidia ci ha postato ormai si dice postato ogni cosa, sì, ormai sperando che si senta bene, ci ha postato un video su YouTube che noi andremo ad ascoltare immediatamente. È un messaggio di San Valentino. Ok, eccolo qua. Allora, voglio dire, San Valentino, non credete a questi San Valentino. A parte che San Valentino era un gay, quindi l'amore, buttatele via, trombate a San Valentino. La donna, trombate. Alle donne mettete le corde da una parte all'altra, aprite le gambe e trombate. No. Vedrete che quello è il vero San Valentino. Giba, il giorno di San Valentino, quante volte tromberai Giba? Una, con le ore. E basta, non rompete i coglioni. Noi l'amore con Nenna Rosa la facciamo giovedì, è vero Giba? 43 anni di non matrimonio, perché l'amore non esiste. Allora, questo messaggio di San Valentino dalle Olle di Lernia, che voglio dire è uno degli esempi di tamarranza. Sì, ma parla al microfono. Te si magnato la banana. Ecco. Com'era? Che? Casa Zizza. Casa Zizza. E o parmigiano. Allora, quindi un esempio di tamarranza. Bello di che noi non abbiamo neanche visionato prima il filmato. Sì, noi infatti ci siamo affidati male. Però va bene così. Allora, visto che San Valentino, negli anni 90 uscì un gruppo, che era un gruppo composto da 6 persone. Eri per caso? Madonna mia, sei bravissimo. Allora, non sapeva niente, giuriamo che non ha letto. No, non ha letto perché gli schermi non... Il sistetto italiano per eccellenza sono in Eri per caso, proprio nella storia italiana. Dopo Gino Paoli che non è un sestetto, Gino Paoli vale per 6, va bene. Va bene, salutiamo allora, Gino. Allora, salutiamo Gino Paoli e noi ci ascoltiamo questo pezzo di Neri per caso. Non restare sulla porta, entra pure se ti va. No, che se non sarà stasera, prima o poi succederà. Maledetta timidezza, che la voce se ne va. Yo, ma in silenzio si può amare. In silenzio siamo qua. In fondo quando momento c'è sentimento, non c'è mai pentimento. Oh, no, no, no, no, no. Quando c'è sentimento, oh, le, le, le, le, ya, non c'è mai pentimento. Tutto gira intorno al sesso, perché il sesso tira su. Oh, oh, yo, yo, yo. Ma bisogna farlo spesso, sì. Non esistono i tabù. Oh, oh, oh, via. Fare sesso è naturale e fa bene ad ogni età. Oh, yo, yo. Non c'è niente di immorale e beato chi lo fa. In fondo quando c'è sentimento, oh, no, no, no. Non c'è mai pentimento, oh. Quando c'è sentimento, non c'è mai pentimento, no, no, no. Sulla porta entra pure se ti va, che se non sarà stasera prima o poi succederà. Maledetta timidezza che la voce se ne va, ma in silenzio si può amare, in silenzio siamo qua. Tutto gira intorno al sesso, perché il sesso tira su. Ma bisogna farlo spesso, non esisto, non da fare. Sesso è naturale e va bene ad ogni età. Non c'è niente di morale e beato chi lo fa. No, quando c'è sentimento, watch a man, non c'è mai sentimento. Lord have his mercy, say united we stand, united we fight. And I wanna send you a little man, I need you one. United we stand, united we fight. And I wanna send you a little man, I need you one. And it's alright, never turn my step back in the right. Now my next in the theater, I keep in my papa, it's alright. Never turn my step back in the right. Allora, dopo questa sentimento pentimento dedicata alla serata di San Valentino e di Tamarranza, ancora spintissima, c'è chi è rimasto un poco sconvolto in chat, però sicuramente si siete messi a ballare senza dubbio. Ma abbiamo anche un aneddoto tra l'altro relativo a questo, a questo pezzo che Mr. Chucky vuole... Sì, dicevo ai compagni di brigata che tanti anni fa ascoltai questo pezzo mandato attraverso gli altoparlanti del parco giochi Gardaland. Madonna mia. Gardaland. Ma anche no, scrivono. Ma tira te che sì, tu te non che non tu calcolare, perché l'ultima volta che ho fatto una puntata con questo, no, io parlavo, no? non mi cacava di striscia. Io mi inserisco. Ma no, perché scrive Ale, ma anche no, in realtà non stava ballando Ale, ma non ci sta capendo niente. Fallo, sì, vabbè, vai. Possiamo ballare a casa se vogliono. Vai, vai, hanno detto che non possiamo mandare video perché siamo in radio. Salutiamo Manu, è assurda che è questa cosa. Salutiamo Manu che è entrato in Salutiamolo. Chat. Salutiamolo. Ciao Manu. Ciao. Vai, vai, stavi raccontando. Va bene, allora, rinnoviamo i saluti a Manu. Niente, diciamo che sto pezzo mi ricorda un'esperienza vissuta in quel magico posto che è Gardaland. Che poi non è magico, ho rischiato anche di vomitare un paio di frangenti, però... Che capitano, capitanno. C'avevi un po' di prezzemolo così. No, vabbè, questa la battuta la tagliamo, eh. Vabbè, questa la tagliamo, eh. Ricorda, cut. Sì, cut. Ma che doveva fare questo prezzemolo? Vabbè, lascia stare. Io l'ho detto apposta. Allora, vabbè. 22:02 minuti, prima passata mezz'ora nel delirio più totale e nel caos. Siete in ascolto di Radio Noise questa sera, puntata Tamarra, un po' dedicata agli anni 90, dedicata alla musica italiana degli anni 90, e questo spezzone era chiaramente per San Valentino, per prendere anche un po' in giro se vogliamo. Ma però per dare comunque far sentire comunque le qualità dei Neri per Caso, che cantavano a cappella in sei persone, voglio dire, cantavano sì con la cappella, però, e non ridete, voglio dire, ridete. Comunque c'è Roberto Quarto che mi dice sempre da Facebook, perché lui non apre la chat perché sta pro Facebook. Io però Facebook lo sto utilizzando massivamente. dice: cosa cacchio avete tirato fuori? Che poi per caso sono stati sulla cresta dell'onda tipo 15 minuti. Vabbè, però 15 minuti. Mi ricordo di Andy Warhol, parlavi in 15 minuti. Siamo stati particolarmente fortunati perché in quei 15 minuti abbiamo c'era un sacco tanti, di gente. C'era un botto di c'era persone. Un sacco di gente. Non c'era Facebook. Non c'era Facebook, esattamente. Allora, noi ci ascoltiamo un altro pezzo di Neri per Caso. Poi chiaramente ascolteremo qualcosa di più interessante. Vai a palla, che vi interesserà tutta la sera, di dai, più. Quindi reggae spintissimo. Un pezzo filosofico questo. Un pezzo filosofico, sì. E vai, let's play DJ. Ragazze si lanciano ad occhi chiusi nelle avventure, qualche volta confondono la bugia e la verità, seguono l'istinto e l'istinto le aiuterà, sono treni in corsa che nessuno fermerà, no. Le ragazze decidono il destino dei loro amori, i ragazzi si illudono ma non contano un granché, quando ti sorridono è probabile che sia un sì, ma quando si allontanano è no, e tu ci devi stare, inutile sperare di recuperare se hanno detto no. Meglio sparire, non telefonare, per sentirsi dire un'altra volta no. Come se non ti importasse più, senza farti mai vedere giù. Si può amare da morire, ma morire d'amore. Testi delle canzoni sono sempre al centro dei discorsi di tutti noi che non conosciamo nemmeno la metà di tutto quel che pensano e dei segreti che ognuna ha. Le ragazze volteggiano sulle ali degli aquiloni e noi innamorati che le seguiamo da qua giù. Guarda come planano, qualcuna scenderà, ma quando si allontanano è no, e tu ci devi stare, inutile sperare di recuperare se hanno detto no. Meglio sparire, non telefonare, per sentirsi dire un'altra volta no. Come se non ti importasse più, no, senza farti mai vedere giù. Si può amare da morire, ma morire d'amore. Ragazze che sfidano le opinioni della gente, hanno gli occhi limpidi di chi dice la verità, senza compromessi e né mezze misure, sono più sincere le ragazze della nostra età. Veramente si è creata la polemica in chat perché insomma chi dice no non li ho mai ascoltati, chi dice no li odio eccetera eccetera. Sì sì, questi sono quelli pentiti, capito? Che la bugia e la verità. Poi insomma. Ma quando si allontanano? No. E tu ci devi stare, inutile sperare. E lei è Saso che scriveva: l'ultima volta vi ho lasciato con i Fu Manchu e poi uscite fuori con queste cose. Ma noi stupiamo. E stupiamo così. Ma secondo voi ha senso l'ultima frase che hanno detto? Dice Ale dalla chat. L'ultima frase adesso non ce l'ho presente. Aria, ho sentito l'ultima frase che Aria. È un insegnamento, sì. No, ma è una dritta più che un insegnamento. Non ci sta e via. Allora, non mi ricordo quello che volevo dire, ma in realtà Mr. Wolf ha scelto questo pezzo perché dice: ma come? È un po', come dire, un po' polemico, un po' no, oppure è un po' solo nostalgico, oppure tu ritieni che ci sta bene, dai, San Valentino. Quando si allontanano è no. Bello, calza pennello. Quindi questo San Valentino voi ci credete? Non ci credete? No, no, assolutamente. Quindi era solo per le ragazze, dedicate alle ragazze in generale. Sì, si può dedicare, non si può dedicare, uguale. Tanto se si fa una cosa o non si fa è uguale. Non è così. Questa me la scrivo. Sì, non c'è nessuna differenza. Questa la scriviamo. Ripeti un attimo. Ti prego, ripetila. Fanno le cose o se non si fanno è la stessa cosa. Non cambia la nostra sorte. Le cose, le cose. Vabbè, di cose. Di cose. Saso, addirittura abbiamo fatto emozionare i cuoricini. I cuoricini sul pigiama con gli orsacchiotti di Saso. Mentre qui ci chiedono sul pigiama con gli orsacchiotti di Saso. No, ci sono i cuoricini sul pigiama. Già io con il pigiama con gli orsacchiotti. Vabbè, allora, vabbè, sexy Saso. Oh, sexy, ok. Manu giustamente dice: cambiate sottofondo, vi prego. E quindi vabbè, iniziamo chiaramente ad ascoltare un po' di taglie di cassa. Andiamo di cassa, un po' di, come dire, un po' di tamarranza, se vogliamo, ci voleva, no? I Tankard no, i Tankard non sono italiani e soprattutto non hanno suonato. Grofolano, non lo so, non si dice. Che è italiano. Cugino del batterista. Cugino del batterista. Questa italiano. È una tua informazione. Sì, sì. È di Bolzano, Bolzano, sì. Ho capito. Vabbè, loro tedeschi, mezzi tedeschi, mezzi italiani, si può fare. Se hanno fatto giocare Thiago Motta nella nazionale italiana vuol di dire, calcio, ci sta. Potrebbero tranquillamente far figurare i Dunkard nella lista Radio Noise. È giusto. 22.09 minuti, sì, noi continuiamo. Cioè adesso? Adesso alziamo un poco il livello, visto che qua si lamentavano in chat e magari si staranno lamentando anche chi sta ascoltando senza entrare in chat. Quindi un gruppo... Vabbè, io non di fronte a certi gruppi io è inutile parlare, ma li ascoltiamo e basta. Si muove la mia ombra, posso muovere ogni cosa. Io rifletto, milioni contro uno. Io rifletto, il panico dell'insetto. Io rifletto, migliaia di parole. Io rifletto, 90.000 ore. Io rifletto, ancora più vicino. Io rifletto, il mio coefficiente è il massimo. Sento intorno un riflesso su di me. Lacrime e sorrisi sono dei miei simili. Non li vedi riflessi su di te. Sei di te debili, sono questa genesi. Sento intorno un riflesso su di me. Le lacrime e i sorrisi sono i dei miei simili. Ora vedi rifletto su di te. Sei di te debili, sono la mia genesi. Ai io rifletto, questione sai d'affetto. Ai io rifletto, assoluto indebito. Io rifletto, il mio miglior amico. Io rifletto, rifletti ciò che dico. Io rifletto, e cerco la mia forma. Io rifletto, a Milano come a Londra. Io rifletto, qual è la mia fortuna. Io rifletto, ora sei zitto e fuma. Io rifletto, e cerco la mia strada. Io rifletto, e qual è la mia cosa. Io rifletto, questa è la mia città. Io rifletto, Milano fratricida. Io rifletto, e questa è la mia sfida. Io rifletto, e questa è la mia sfida. Io rifletto, 5 round e 2 minuti. Io rifletto, qualcuno mi aiuti. Io rifletto. Radio E siamo tornati in onda dopo aver ascoltato questo pezzo bellissimo dei Casino Royale. Manifesto dei Casino Royale. Io rifletto, Saso chiedeva se per caso fosse stato scritto da uno specchio. Ma vabbè. Disco registrato a Londra. Yes. E vai. Nel quartiere di Leytonstone. Dove registrano l'album CRX, appunto. Là. Prodotto da Tim Holmes, poi leader dei Death. Detto un po' difficile. 1997. Buffone, gridano dalla, dicono buffone, gridano. 1997 c'era Giuliano Palma. C'era Giuliano Palma dentro, Giuliano Palma dei Blue Beaters. No, non è dei Blue Beaters, però che poi no, che poi è iniziato a suonare con i Blue Beaters. Un po' con io rimango un pochino, come dire, fermo sui movimenti di Chucky che crea il panico. Non si sa che. Mamma mia, sto posagione puzza, fare schifo. Mamma mia. Questi sono gli interventi. Così suoi. Va bene, noi ascoltiamo un altro pezzo di Casino Royale, perché così smorziamo questo down che è arrivato in sala in questo momento. E basta. Vai. Genio, allora, da, genio da Facebook, questo messaggio di servizio. Genio da Facebook ci dice buonasera, quindi buonasera a te Genio. Buonasera a te. Ciao, Genio. La tamarranza è una cosa, ma se passate i Casino Royale alza il livello. È chiaro. Diciamo era, a tutti, ciao Genio. Era un po' la dedica agli anni 90 come decennio tamarro. Genio, saluti da... Vabbè, dal pubblico. Non si sa. Allora, vabbè, non si sa. Vabbè, allora, ciao perdo. Allora, Casino Royale, un altro pezzo e questo è sempre più vicino. We'll be right back. 1995 Casino Royale con Sempre Più Vicini, e questo è Sempre Più Vicino invece, è il singolo. Suona londinesissimo, molto English, in quel periodo tra l'altro abbastanza innovativo, cioè iniziano ad arrivare i suoni dall'Inghilterra, i suoni elettronici, e i Casino Royale l'hanno preso in pieno, come un tram. Io vi guardo, sì, per avere un poco di... Sì, ah, mi dicono sì. Dico sì, va tutto bene, quindi. Allora, vogliamo parlare un poco del... Visto che tu stavi leggendo, Robby, stavi leggendo un po' di cose riguardo al Tamarro. Vogliamo un po' raccontare lo stile. Visto che anche se stiamo ascoltando musica italiana, però... Voglio dire, il periodo degli anni 90 era molto Tamarro come abbigliamento, ma come tipologia. Diamo un po' di... delle tipiche minacce del Tamarro. Ah, tipiche minacce del Tamarro. Per esempio... Ti do mezz'ora di schiaffi in 5 minuti, dice il Tamarro. Voglio dire, ci vuole una certa... Pure ti volo addosso, ti sto alzando le mani, ti ficco un 0,45% di schiaffi. Qua era un Tamarro di tipo matematico, diciamolo. Non era Tamarro. Ti do le sberle, 2-2, sberle, 2-2 finché non diventano dispari. Questo lo dicevano. Questo è vero, grande fantasia. Questo lo dicevo, posso confermare. Ti scendo le mani in viso, secondo me. Ti scendo le mani in viso, vabbè, un poco più poetica, diciamo. E avevo una certa fantasia. Ti proietto il film di Van Damme in faccia. Vabbè, sicuramente avevo una certa fantasia. Sì, era un po' inventivo. Ma io chiedo a voi, visto che siete figli degli anni 90, io chiedo a voi. Perché gli anni 90 secondo voi? Io sono dell'85. Sì, ma voglio dire, hai vissuto. Beh, hai vissuto negli anni 90. Hai vissuto negli anni 90. Sì, sì. Sì, cioè, credo forse, a questo punto. Può darsi, non lo so, non mi sento di confermarlo. Gli anni 90 le ha passate in camera. Ma mi sono passate addosso, sì. L'ha attraversato. Mi hanno schiacciato. Mi hanno vissuto loro. Invece di vivere io gli anni 90, sono stato vissuto dagli anni 90. E c'è una bella differenza. E poi tra l'altro gli anni 90, anche se in realtà la comunicazione era chiaramente minore rispetto ad adesso. Sì, ma scusami, ma ti faccio entrare in simbiosi con quel muro? Non mi sembra molto da Tamarro, eh. Cioè ti faccio entrare in simbiosi con... cioè, ma quello io non ho trovato nessun Tamarro, non ho detto. Voglio dire no. Poi, mentre vabbè, se io dicevo simbiosi, un Tamarro mi imbruttiva, cioè, perché mi diceva mai detto qualcosa di brutto, capito? Impossibile, no. Simbiosi non è un termine utilizzabile da un Tamarro cosiddetto. E poi come sono fatti sti Tamarri? Vabbè, sicuramente uno si riferisce a un altro dicendo che è Tamarro dall'abbigliamento, se non altro. Ma qua in realtà c'è la un macchina, regalo, magari se uno vede uno in macchina su una uno con quattro marmitte dice che è un Tamarro. Vuoi sapere lo stile di guida del, per esempio, del Tamarro? Vai. Lo stile di guida del Tamarro è il classico: guida una mano sul volante o una mano o sul pomello del cambio. Il Tamarro grezzo invece guida con il braccio fuori dal finestrino, facendo così risaltare il tatuaggio Maori che porta sul braccio sinistro. Questa è la guida così il Tamarro. Però incontro... adesso mi viene in mente una cosa, mi hanno detto di recente che il Tamarro come il diamante per sempre, scrivono giustamente. Sì, cioè è uno stato simbolo. The Beers. No, stavi dicendo... Ah no, del Rolex. Vogliamo parlare del Rolex. Parliamo Rolex del d'oro, tamarrissimo. Quando uno sta in macchina e il Rolex, per non farselo scippare, lo deve tenere sempre abbottonato, cinturato sul polso destro, quello che sta sul cambio. E non su quello che sta appoggiato sul finestrino, perché sennò, oltre a essere tamarro, si puro giuato perché te lo scippano. E so anche come. Mo non ve lo dico perché non voglio far passare certe cose in rete. Già, bravo. Però rimarrà un mistero. Daremo la risposta ai posteri o a chi per loro. Ai poster forse. Ai poster. Diamo i poster, va. Vabbè, insomma, in Italia comunque negli anni 90 arrivarono un sacco di stili. Ci fu un sacco di influenze dagli Stati Uniti, d'altro oceano, dall'Inghilterra, come abbiamo sentito prima, i Casino Royale, che avevano un suono londinese, molto English per quel periodo, perché iniziava ad arrivare un certo tipo di musica elettronica dall'Inghilterra, insomma anche il tipo Bristol. Il tipo di lavoro anche sui pezzi, un po' iniziava ad arrivare un po' di drum and bass, diciamo. E arrivarono anche, iniziano ad arrivare anche, sì effettivamente, vabbè, iniziano ad arrivare arrivare. Il passato remoto è giusto arriva. Iniziò ad arrivare anche il crossover, in realtà era alla fine degli anni 90, è il gruppo che imbracciò, diciamo, alla questo fine genere degli anni 90, Kenneth. In Italia. Ah, porca troia, è vero, avete ragione. Eh sì. E quindi loro 1998, giusto? Sì, sì, 98. 1998, sì. Lira 77. Too Much Happiness Makes Kids Paranoid. Questo è il disco d'esordio dei Linea 77 da Torino, non proprio Torino, del, Venaria, mi da, sembra. Da Venaria, esattamente, ora non mi veniva. E loro esordiscono con questo disco, questo è il primo pezzo, quindi chiaramente si è gridato al miracolo qui in Italia. E poi sono successe un po' di cose, perché loro sono partiti benissimo. In più, all'inizio non furono considerati bene qui in Italia, tant'è che questo primo disco in realtà non hanno avuto fortuna altrove. Questo disco non ebbe molto eco all'inizio. Adocchiati dalla Irch, come cazzo si pronuncia? Non l'ho mai capito. Gerage, forse per gli amici di calabresi che ci seguono. Gerage. In realtà Record. In realtà è uscito prima per la Collapse Record. Flaps, nel 98, poi è stato diciamo ristampato nel 2000 per la Rush. Vabbè, riuniva un'etichetta che inglese, che riuniva tutti i gruppi di genere molto estremo, anche metal, sì, sì. Metal, frange di metal estremo. Molto estremo, sì. Forse anche gli stessi Death, forse, che avete detto prima, non lo so. Death, non vorrei dire niente, però boh. Allora non lo dico. Vorrei dirti Las Vegas. Sicuramente Yerton 9, un altro gruppo interessantissimo. Inglese. E allora finirono in questo calderone crossover. Tra l'altro, questo disco ci sono due pezzi cantati in italiano, e poi c'è un pezzo che è chiaramente una dedica ai Deftones, perché loro chiaramente si ispiravano anche a gruppi di questo tipo, diciamo un crossover, un rap metal abbastanza tosto, due accordi secchi, percussivi, ritmi molto percussivi, e andavano così. Però poi c'è stata un bel gruppo che si è perso per la via, perché dopo due album, i primi due album molto molto ben fatti, e un terzo album anche insomma ben fatto anche lui, hanno avuto il tracollo con il quarto album Available for Propaganda, che è una merda. è una merda, è proprio un album schifoso, con pezzi schifosi. Forse anche loro stessi se ne saranno pentiti, insomma. Tra l'altro è stato l'album più pagato, album con il budget più ciccione. Hanno fatto ovviamente un album di merda. Si saranno fumati, pippati e bevuti tutto quello, tutto il budget che gli aveva dato l'etichetta. Se lo sono bruciati. Hanno fatto uscire un album di pessima fattura. Pessimissimo. E invece il secondo album, dopo Too Much Happiness Makes Kid Paranoid, iniziava così. Così che iniziava il secondo disco, Cage Up Suicide, con Potato Music Machine. E E questa serata è dedicata ai gruppi italiani, Italians Do It Better, dico, prendendo anche spunto da un programma che era su Rock TV qualche anno fa. Dalla maglietta di Madonna anche. Dalla maglietta di Madonna anche. Qualche anno fa. Italians Do It Better, sì. Madonna aveva una maglietta del genere, sì, sì, sì. E quindi prendendo spunto io vi chiedo, secondo voi, se Italia... Questo non posso... Questo non lo possiamo far passare. Chiedo a voi se Italians Do It Better oppure no. Oppure ripropongono soltanto schemi internazionali. Questo è difficile. Questa è difficile la domanda. Ponimela. Io ti chiedo se Italians Do It Better oppure no. Cioè, se riprendono semplicemente gli schemi... Lo stereotipo, copiano gli schemi oltreoceano o oltremanica, oppure... Non lo so, il fatto è so solo che sento un gruppo, sento un pezzo, si sente che è italiano. Adesso non so se è un'impronta che lasciano i gruppi italiani o se... è un qualcosa in meno che mi arriva rispetto a un pezzo di un gruppo americano, che poi la comparazione si può fare, cioè, so, con gruppi americani, anche perché, che ne so, della scena inglese non mi ricordo, almeno degli anni 90 non ricordo niente, quindi non niente. Lo so, mi sono perso, troppa birra. No, in realtà è che davvero, se si ascolta un pezzo ti riesco a dire sì, è italiano, perché non lo so, si risente qualcosa dentro, non lo so. C'è qualcosa, non so se se si sente qualcosa in meno oppure sono più curati pezzi fatti oltreoceano, non lo so. Però alcuni gruppi italiani spaccano. Altri fanno cacare, tutto il mondo è paese, bla bla bla, insomma. No, non c'è differenza. Allora, visto che allora, gli abbiamo preso la parte seria, diciamo, della puntata. Non so che dirti, non so se lo fanno meglio. Non sei un cazzo. Ma voi mi avete invitato, io sono venuto. Lo so, però non lo so. Ecco, appunto. Allora, visto che sì, scrivono da Facebook, sempre Genio, che dice la sua trilogia secondo lui degli anni 90, no? Sì. Neffa aspettando il sole. E c'è. Poi di Gianluigi, questa è la realtà. E poi Caos, cose preziose. E dice poi non parlo più. E poi non parla più. E allora, noi non vogliamo. Dei tre, perché stasera è dedicata ai gruppi mainstream, se così per dargli un'accezione. Passiamo a quello più famoso che tra l'altro è stato messo in cima. Allora, questo è Neffa, aspettando il sole. Sei, cosa fai, chissà se tu avrai mai pensato a me, al nostro fuoco che bruciava mo' e cenere. Ma tutto passa piano, eppure se fa strano io sorrido, perché so che oggi non ti chiamerò. Quel che viene venga mi sta bene, quel che è stato è già passato, e mo' il passato se lo tiene. Piove già da un tot, la pioggia bagna la mia pelle, ma mi asciugherò, perché so che il tempo è ciclico e so che un po' di tempo è quello che ci vuole. Mentre un guaglione sta scacciando il male, sta aspettando il sole. Oggi non c'è sole intorno a me. Sono impressione frutta. frutto della mente di un guaglione. Sarà che non c'è il sole, sarà che tutto sembra resti uguale. Sarà quel che sarà, sono preso male, ma nessuno chiama e non so chi chiamare. Cerco di schiodarmi, penso solo a quello che ho da fare. C'è su, sono io la vittima dei demoni che tornano e che vengono a tirarmi giù. I miei cattivi pensieri che mi aspettano, braccano, parlano e parlano. Dove sono i raggi che scaldavano un guaglione? Dove sono gli altri della mia ballotta? Mo che sono nel ciclone. In dopa trovo la mia cura, in dopa mischio le radici e la cultura e ho energia pura. La musica mi detta le parole, faccio queste rime, so che prima o poi ritorna il sole. Oggi non c'è sole intorno a me. Salvami, risplendi e scaldami. Voglio sole, cerco nuova luce nella confusione. Il guaglione. Vada come vada e vada a sé. Conto solo su di me, già so che già sai che Chico fa quel che sa da fare quando amore non c'è. Devo impostare perché in tasca manca mone. Sempre più difficile restare calmo in questa situazione. Sclero, non ne voglio più, parto da zero. So che in qualche modo devo andare su, ma non c'è più luce, solo buio che fa male. Non c'è più pace, solo rabbia che ogni giorno sale. So bene dove sono e adesso voglio stare qui, sentire il beat. Se sei l'ascolto vieni a prendermi, rapiscimi, musica colpisce al cuore. Boom shap, però non c'è dolore. Ti stendi le tue mani guaritrici su un guaglione, mentre sta aspettando il sole. E io oggi non c'è sole intorno. La poesia racchiusa in 5 minuti di pezzo, lo era Neffagon aspettando il sole dai messaggeri della dopa. Neffa che tra l'altro ha una storia comunque molto particolare, cominciato come batterista suonando anche nei Negazione, gruppo storico del punk hardcore italiano degli anni 80, reinventato alla grande come rapper con i Sangue Misto, gruppo pop rap italiana. E in seguito uscì poi con i suoi progetti solisti come questo Neff e Messaggeri della Dopa, in cui in questo pezzo era presente anche Giuliano Palma, che avevamo sentito già prima, già sentito, sì, come cantante dei Casino Royale. E in seguito poi carriera solista più pop, ma comunque sempre, sempre comunque di discreto livello, perché comunque il background è valido. Cioè, è quello che è, sì, non sicuramente si può dire nulla a Neff. Anche se fa hip hop adesso, però voglio dire, schifano, meglio lui, però... meglio lui che altri. Di certo ha una storia che passa dal punk all'hip hop. Sa come prendere la gente in qualunque genere, voglio dire. Beh, anche un gran figlio di puttana. È un guaglione. È uno che è cresciuto su, tirato su dalla strada, quindi ne sa. Però anche lui ha poi cambiato, come linea 77 dicevamo prima, anche lui poi ha cambiato guardia. Quindi vi chiedo, visto che è diventata serio con questo pezzo, siamo diventati più seri, vi chiedo se E poi a un certo punto uno si rende conto che deve cambiare per forza strada se vuole continuare, se questo è condannabile oppure, cioè, cos'è che scatta? Perché voglio dire, gli anni 90, cioè, poi andremo ad ascoltare altri pezzi, non solo perché li ho vissuti, però ritengo che rispetto a questi anni, anche gli 80 già sono stati comunque abbastanza pieni di roba, di musica diversa. Però gli anni 90 hanno avuto, anche qui in Italia, ci se ne rende conto, dai Linea 77 a Neffa, altri gruppi che adesso ascolteremo, che hanno stili completamente diversi e che comunque nel periodo, in quegli anni in cui la comunicazione era minore e i mass media chiaramente passavano molta meno roba, cioè c'erano molti meno programmi o altri angoli dedicati a questa musica alternativa, però nonostante quello il passaparola era abbastanza forte e gruppi di questo genere hanno avuto una certa fortuna. Cioè, se tu parli con persone che magari non ascoltavano Neffa, però sicuramente conoscevano a memoria questo pezzo e ti dicevano anche sì, Madonna, è bellissimo. Ah, avevo 15 anni, vabbè, al di là della nostalgia. Però no, appunto, nonostante i pochi mezzi, perché nel periodo che c'era qualche programma su, adesso non mi ricordo neanche i canali, TMC2 Video, ma Video Music, ecco, per esempio. Però nonostante i pochi mezzi, MTV non era come adesso. Cos'è che è cambiato? Questa è la domanda marzulliana solita. MTV è negli ultimi 10 anni, che siamo adesso 2011 fino al 14 febbraio 2011, giusto? 22:48. Guarda, almeno fino a 15 anni fa, forse qualcosa in meno, 12-13 anni fa si poteva seguire. Non lo so, agli inizi forse, perché poi è incominciato un percorso autodistruttivo, proprio super commerciale, che portava avanti veramente, ha fatto MTV, proprio ha partorito gruppi, cioè progetti proprio atti a guadagnare, cioè, del denaro solo per un album, che ne so, con canzoni proprio suonate schifose. Beh, il peggio, allora, del sono peggio. Anche i tempi che sono cambiati, eh? Il peggio del peggio, ma le canzoni commerciali di anni fa, 20 anni fa, erano dei pezzoni. Ma è solo nostalgia un oppure pezzo no? Dei Sonora, io penso che non credo che rimarrà in mente a nessuno. Io adesso non lo so, adesso dopo i nomi Elio, così, perché tesi, magari facendo zapping in TV ti vedi Sonora. Sonora. Stai lì, mi guardo un po', qualche secondo sto in più su MTV così per guardare com'è, ma la situazione va sempre peggiorando. Vedi sti ciuffi, Viola, in faccia, emotional ciuffi del cazzo, che a parte i ciuffi, però proprio la qualità della musica ne ha risentito in maniera pazzesca. E allora, visto che non ci interessa, noi rimaniamo ancorati agli anni 90, altro dopo, mentre facendo Robby, allora noi rimaniamo ancorati agli anni 90, sempre un altro artista italiano che ha utilizzato, che ha fatto dell'hip hop un genere conosciutissimo in Italia. Saranno gli ultimi, se i primi sono irraggiungibili. Sono

malato immaginario più di quello di Molière. Sono il mio gregario e mi comporto da Salieri, e non chiedermi il perché, che come il Tetris quando perdo il filo poi non mi puoi più riprendere. Che non ti chiamo mai, batti un colpo se ci sei e se stai ascoltandomi. Strappami da questo mio torpore atarassico. Mi son perso dentro un parco che è giurassico e non trovo via d'uscita. Vieni a prendermi o precipito, scivolo come Maximilian verso il buco nero del fastidio. Nel tedio per me non c'è rimedio e me ne accorgo, perché sono sotto assedio mentre tu mi fai l'embargo. Critico ma arrampico su cattedre che non mi spettano, e mi accorgo solo dopo un attimo che esagero. Ma come al solito il danno fatto è irreparabile. La storia è reversibile, la mia memoria è labile e lavabile. Abito quest'ombra con contratto ad equo canone, pagando la pigione all'abitudine, prendendo l'eccezione come regola di vita. Sto di casa a pian terreno e gioco a fare lo stilita. Vago, divago, come il dottor Zivago. Io mi sbraccio e non mi vedi. Cerco mani e spesso trovo piedi. Cerco fumi e trovo lumi che mi bruciano. Ed io so bene che le cicatrici restano. Carta, penna e poco più per stare a galla. Nella testa il mio pensiero è come un ragno in una bolla. Seduto in riva un fiume aspetta di veder passare il mio cadavere pazientemente. Ascoltato una, abbiamo fatto una doppietta con Frankie Energy, no, anche io rido perché mi ha fatto una proposta Robby che io ho ignorato, Robby il vecchio che io ho ignorato completamente. E chiaramente le riflessioni su gruppi dell'epoca, su quello di cui abbiamo parlato prima, di Chuck, che Chuck ha detto prima, riguarda MTV, riguarda la musica che prima si passava, scusa. Chiaramente le riflessioni continuano. Io inizio a biascicare. A sbiascicare, ma è proprio andato completamente. 22:59 minuti, sempre in ascolto di Radio Noiz, serata italiana. E ci siamo addentrati nel momento hip hop rap. Tra l'altro qualche anno fa una litigata amorosissima tra Frankie Energy e il Federico Zampaglione dei Tiro Mancino in diretta su una serata dopo Sanremo. Adesso non mi ricordo, di qualche anno fa, un po' di anni fa. E Federico Zampaglione e Frankie Energy, che avevano collaborato all'inizio nel periodo iniziale dei Tiro Mancino, perché Frankie Energy scrisse un po' di basi per i Tiro Mancino, che utilizzavano anche basi un po' beat un po' più hip hop, e poi fecero questa litigata incredibile. E per quanto riguarda collaborazioni del periodo, c'è questo. Io mi distraggo perché poi ci sono commenti qui in sala mentre cerco il pezzo. Io chiedo a Robby Federico Zampaglione scrive musica discutibile. Va bene, quindi infatti Tiro Mancino diventarono famosi anche per la qualità dei pezzi, di alcune basi, perché era Frankie Energy che scriveva a Federico Zampaglione, anche Tiro Mancino. Riccardo Senigallia. Sì, sì, anche Riccardo Senigallia. Non so se sto Zampirone qua scriveva da solo, si faceva scrivere da qualcun altro, però dei pezzi che sono usciti di quel po' di merda che non mi piace. Mi sono perso dentro un pino, ma se ci stanno ascoltando si incazzeranno. Venite in via Diego Angeli numero 9. se volete venire a Milano, vi accolgo a braccia aperte. Roma, Roma, zona Tiburtina, se volete venire a reclamare, venite. Faccio gli faccio due spaghi, no, che manzin, Capalbo Balbo, citofonate, mi raccomando, premete giusto il pulsante, vi faccio una faccia di paccheri, va buffo. Prendendo l'eccezione come regola, è un gruppo che non ho mai potuto soffrire. Vago, divago, come il dottor Zivago. Io microfono, comunque vale, perché sennò ti sentiamo solo noi qua. No, vabbè, sì, infatti, però il concetto è chiarissimo. I di Romancino mi fanno schifo. Musica che non ho mai potuto veramente. Vabbè, tagliamolo. Insomma, la critica qua diventa ancora più dura. Esatto. Feriscono, non mi chiamano, non mi chiedono, mille direzioni, mille traiettorie si propongono, luci spente non si accendono, aria fresca nei polmoni si risvegliano, le forze che dormivano, col rumore dei miei passi mi accompagnerò, sul rumore dei pensieri che svaniscono, nel rumore delle macchine che schizzano, luci blu non mi muovo, resto calmo contro il muro, niente mi spaventa quando il buio mi circonda, niente mi spaventa. Oltre il tramonto, nel punto in cui il cielo dà il colore a tutto il resto, buio pesto, amplifica l'impercettibile, mostra l'invisibile, racconta storie antiche in un dialetto incomprensibile per chi nella luce si nasconde. Con la luce mi confonde, dalla luce trae le risposte a tutte le domande, ombre evanescenti fatte d'alito, parole troppo corte per formare un dialogo, spirito custode del crepuscolo, vende su di me, soprattutto quando scivolo nelle pieghe della sera in cerca d'oro, prima che il mattino lo divori, prima che ritorni un'altra alba a prendermi, prima che sia pronto per difendermi, prima di esaurire il tempo disponibile, ombra guidami, prendi la mia mano ed accompagnami, lontano da qui, lontano da chi può accecarmi. Succedendo, intendo, troppe luci intorno a me, le sto spegnendo. Soltanto fuochi fatui, basta un soffio, ti riduco niente. Notte tempo, concepirai quanto è importante il buio nella fase dell'allenamento. Domani ti sarò distante, pronto a prendermi ciò che mi spetta. Da niente immagini raccontano una vita intera. Te spero, da qui in poi sto nel futuro. A proposito di collaborazioni, questa era la comitiva dove c'erano in mezzo appunto Riccardo Sinigaglia, Federico Zampirone, come ha detto prima Jackie, Frankie Energy. Questo è un gruppo che pochi forse conoscono, in questo pezzo c'era anche Elisa, che diventò andò forse, sì, era lei esattamente, andò forse per la prima volta Help di Red Ronnie dei Beatles, sì. Andò dai Beatles. E questa è una collaborazione dei gruppi che in quel periodo, di gruppi, di personaggi che in quel periodo non facevano musica buona. Nonostante ciò, questo gruppo è stato un gruppo di nicchia perché pochi conoscono in realtà. Quindi andatevi comunque ad ascoltare il disco La Medicina Buona della comitiva. Questo è il pezzo Nottetempo, che ha tra l'altro un video abbastanza strano per l'epoca. Salutiamo Psilocibe che è appena entrato in chat. E noi invece adesso andiamo un po' a roccheggiare e rimaniamo sempre agli anni 90 e loro esordiscono con questo pezzo nell'album io ritengo più bello della loro carriera.1994, Marlene Kunz escono fuori con Catartica, altro gruppo esplosivo che ha dato scuola a un sacco di gruppi e soprattutto è legato a un evento. Sì, perché nel 92 con questo CSI sì, da far risalire a un concorso musicale, si chiama Rock Targa d'Italia, dove insomma Marlene Kunz hanno partecipato, anche se sono arrivati i noni. Seriamente, no, non si può parlare con lui Cristo. Le pulizie vanno bene, cioè. Benissimo. E quindi stavi dicendo, scusa. Niente, hanno partecipato a Rock Targa d'Italia, però sono arrivati i noni. Però grazie al forfè dei rifiuti solidi urbani sono arrivati tra i finalisti. E poi insomma sono stati individuati da Gianni Maroccolo. Insomma, gruppo Gianni Maroccolo? Che gruppo Gianni Maroccolo? No, so, no. Ma sono stato a sentire, no? Seguite, seguite, cavolo. Gianni Maroccolo di che gruppo? Insomma, l'album no, è insomma, da... No, è di Simula, no, insomma. Simulatore onesto. The CSI, o anche CSI, visto che siamo... Visto che nel periodo va di moda, adesso CSI. Mentre Jackie tiene il microfono in alto. Ma io sembro la Statua della Libertà. Non sono mai stato così vicino ad avere le sembianze della Statua della Libertà. Libertà. Saso dice di devastante questo pezzo di Marlene. Sì, questo è un pezzo di Marlene devastante che in Catartica apre, cioè. Rewind. C'è la ragazza di Renato che gli rompe le palle. Allora, no, i Marlene Kunz esordiscono con questo album e questo primo pezzo che è appunto MK, cioè Marlene Kunz, che poi non traduciamo il significato di Marlene Kunz, però che poi riesci pure a una famosa serie di motorini, che MPK se non mi sbaglio. Sì, ma il pezzo era MK. Ah beh, c'è una B di mezzo, ma che fine le vuoi far fare a sta B? Oh, Kenaz, lasciamola in mezzo, c'entra. Lascialo sapere. Ancora Marlene Kunz, perché va veramente, sta scadendo in una maniera. Ancora Marlene Kunz, ancora in onda su Radio Noise, 23:13 minuti. Questo è il vile. Sento la vita. mentre si parlava qui di c'è un po' di sgruscio, c'è un po' di sgruscio, quindi lo tagliamo. Mentre si parlava qui di Melacotta, che in realtà non c'entra niente, abbiamo ascoltato i Marlene Kunz da Elvira del 1995, altro disco di Marlene Kunz successivo a Catartica, abbastanza incazzato. Dicevamo qui Cristiano Godano, il cantante, erano il singer. Tempi duri, erano tempi molto duri. Dica come adesso. No, assolutamente, adesso sono tempi morbidissimi. E niente, noi continuiamo a mangiare, noi non continuiamo, iniziamo a mangiare la torta. E a proposito di gruppi italiani, noi passiamo adesso al sud. E corna in su, mani in alto. E noi ascoltiamo un gruppo che sarà il 25 febbraio a di Catanzaro quest'anno. Di quest'anno, sì, a Catanzaro al People, un gruppo CM Corrente Mese. 25 febbraio al People di Catanzaro. Come fai dire sta interrompo quando interrompo. Com'è che dici che molesta, no, molesta. Adesso gli... Stato ha aggiunto CM a dire Cascello Marco, per dire. No, hai dato l'indirizzo, hai dato il nome. Quindi se volete spedire cartolini. Allora, 25 febbraio al People di Catanzaro, live dei 24 Grana, altro gruppo che ha segnato gli anni 90, ha segnato un sacco di persone grandi. Questo è un gruppo che apprezzo veramente, chissà come mai, credo io. Ma guarda, se ti stai riferendo al fatto che durante i concerti passano al cantante una quantità di spinelli, no, non verosimile, diciamo assolutamente quello, diciamo per la provenienza, e di conseguenza che no. Mi piace fumare gli spinelli, allora no, hai ragione, dicevo, ti do ragione, dicevo per la provenienza, della provenienza anche, sono vulcanici, ecco. Tasso dice posso permettermi dalla giacca. Cosa? Si permetta. Sì, come si permetta. Sì, lei. Sì, no, allora io Ciao. Ciao, Ciao. Ciao. Sasso, sì, puoi permetterti di dire cosa? Adesso vediamo che cosa dirà. Per info, giustamente, per info sul concerto dei 24 Grana, rockandroll@gmail.com, perché Rock grandi 24 Grana, gran bel gruppo, una bella realtà che si è conservata nel tempo, anche se l'ultima fatica sta un po' così discutibile, Ghost Riders. L'ultimo album è rimasto indietro. Penultima. Sì, sì. Allora devo ascoltarmi l'ultimo la sì. Che cazzo, allora devo andare a beccare, devo ascoltarlo. Però Ghost Riders è stato un po' c'è stato un calo di tensione, dai, mettiamola così. Sono diventati chiudiamo più con melodici. due righe. Ma no, è che non lo so, non lo so. Le ho ascoltati su quell'album. I primi tre album spaccano, sì. Vero. E appunto, visto che i primi tre album spaccano, noi è una citazione involontaria, perché appunto non sapeva Mr. Wolf, non sapeva qual era il pezzo, quindi questi sono 24 Grana, cose che spaccano. A diventare ricche e chi ne sorge, perché il legame crede che ha ricchezza, io sangue e l'altro un braccio che si spezza. Vorrei pensare a sta buono ogni mattina, pensando che sono stato fortunato, quasi guarda, un coppo sanguellato. Questo è il caso che spaccano, questo è il caso che spaccano. Thank you. che tanto non si canta. Ma sta per sempre ricche e belle storie, penavo che non mi sanno. Vorrei pensare per sempre a chi stuic, e mi arrangiavo se chi veniva. Resta buon fuggendo sempre male. Che sto sei cose che spaccano, che sto sei cose che spaccano. Sempre una parola sola che ti gradasse astuto e buffoncino, fosse lì una rete, una cancella. "24 grana" from Naples. Forza Napoli, forza Napoli, forza Napoli. Messaggi subliminali. No, stavi parlando di Napoli. Che vuoi dire di Napoli? È una città bellissima, stupenda, bellissima. Poi il Napoli, vogliamo parlare del Napoli? No, perché se no sennò... No, direi anche no. Però soffermiamoci a Napoli città, gran bella città, sottovalutata, mettiamola così, va. La scena degli anni 90, sì. Anche in ambito rap, ricordiamo la famiglia. Sì, sì, sì. Alma Megretta, Orais, grandi, grandi gli Alma Megretta. Eh beh, 99 posti non li cito, ma li... Cazzo. Devono citare Officina 99. Si deve citare. L'ha citato. Sta vicino alla stazione. Sta vicino alla stazione. Era allora 25 febbraio 2001 CM. Giusto. 25 febbraio CM. 24 grammi Marco. Al People di Catanzaro per info rockandroll@gmail.com. Sono stati nominati un altro gruppo, è stato nominato un altro gruppo, Alma Megretta, e quindi chiaramente li andiamo tributo, ad ascoltare. Tributo. Tributo? Tributo di Alma Megretta. Non so che pezzo farei passare, però spero, guarda, secondo te? Nelle mie scelte personali spero che insomma tu faccia passare Fa l'amore con me. No, io non... Fatta là. No. No, neanche. Libero, no. Ci ho pensato, ma neanche. No, i classici, classici. Classici, non tengo testa, non tengo pensiero. c'ero quasi. Vabbè, va, l'ascoltiamo e facciamo prima. quando ero figlio lo chiamavano amore. Quello fuoco che ti nasce in vita che mai se ne muore. E compagni parlavano zitto sta cosa scurriusa. Una femmina fa solamente un momento che sposa. Eppure si sposa insomma stata mai. Tocci come cosa, le opere sbatta forte assai. Buona voce, una passione che amma a te. Buona zitti non arricchi. Tutto sente murmuria, non ti scorda, non ti scorda, non ti scorda perché sta vita se ne va, non ti scorda mai, perché non ti scorda, non ti scorda, non ti scorda perché se ne va campo fa, non ti scorda mai. Certa ma mi sento male. Può vendere la gente perché sta mi chiama puttana. Non ho mai saputo sta carcerata in una casa. E non mi capivo che sta non l'ho trovato. A chi mi scriverì con voi? Co corpo tutto venne come me. Non mi sopporta che sto saccia. In sombra specchiero non tu pulisse me morto. Non ti scorda, non ti scorda, non ti scorda perché sta vita se ne va. Non ti scorda mai. Non ti scorda, non ti scorda, non ti scorda perché si no che campa un po'. Non ti scorda te, ma questa è una femminina, questa parte munda, che quando nasce questa è destinata, e sia come hanno cuore, la gente è condannata. Mamma, puttana, ho brutta copia in omma, avesse voluto che in da questa parte munda, apprezzata no per i mascoli sgravata no per chi sto corpo è bella, no per immazzata caggerata solamente perché femmina sono stata. E non catenaccio ancora non me l'ha mai inserrata solamente perché femmina sono stata, solamente femmina. Non ti scordo, non ti scordo, non ti scordo perché sta vita se ne va. Non ti scordo mai, bebe. Non ti scordo, non ti scordo, non ti scordo perché si no che campa. Non do scurdo. bianco, non lo vuoi un bel palloncino colorato? E ci sono anche lo zucchero filato, la cioccolata, le torte e tante altre sorprese qui sotto. E tanti palloncini di tutti i colori. E galleggiano? Oh sì, certo che galleggiano, galleggiano tutti. E anche tu se verrai qua giù con me, galleggerai. Lo spot di Hit ha fatto risalire un po' di ricordi. Incubi dal passato. Incubi dal passato, che è un film storico del periodo. Grandissimo film, mamma mia. Maledetto bastardo di un pagliaccio. Mi ha fatto passare notti insonni, cazzo. Non ci posso pensare. Un film, guarda quanto un film può incidere sulla vita. Sì, il microfono però davanti alla bocca, no? Mani. No, sull'orecchio. No, non ho una gran percezione di me, non è che ho la base. Ah, scusa, noi ce guardiamo... l'hai l'effetto delle palle lì di... Le palle, no, le balle. Le pelle. Le palle di me. No, vabbè, scadiamo incredibilmente questa sera. Ma ci sta, siamo un po' tamarri anche noi. Quindi le balle di fieno, le balle di fieno. Le palle di fieno, vabbè, ognuno il suo. È giusto. Noi continuiamo per un'altra mezz'oretta più o meno, quindi sforiamo e dai, ascoltiamo ragazzi, ancora un po' di musica. Non andate a dormire. Non andate a dormire che ancora è presto. Dai, rimanete ancora sul vostro PC. Ascoltate Radio Noise ancora mezz'oretta. Noise. Noize è un mezzo tedesco giapponese. Sì, una cosa del genere. Noize, vabbè. Non andate a dormire perché adesso ci sono altre forme di vita, praticamente. Thank you.

perché ho qualcosa in mente. Sono come sono, sono cosa sono, sono come sono, sono come suono. Abbiamo ascoltato due pezzi di Blue Vertigo, perché stasera le parole in realtà sono poche, nel senso che non abbiamo pensato di dare troppe informazioni, ma in realtà di far viaggiare i ricordi sulla scia sulle note di questi gruppi degli anni 90. E in quel periodo coloro erano i Blue Vertigo, che suonavano una dance, un'elettronica dance con uno stile da cantautore, diciamo, mentre tutti digeriscono e mi guardano in silenzio. C'è chi scrive il cellulare, c'è chi mangia la torta, c'è chi trova la birra vuota. E in quegli anni arrivarono anche chiaramente suoni un po' più grunge qui in Italia. È un gruppo che prese in pieno il periodo grunge anche dal punto di vista della moda, quindi si vestivano i capelli lunghi, lunghissimi, e suoni. Erano un gruppo che poi ha fatto un po' pena, in realtà si è un po' perso negli anni e ha iniziato a scrivere anche, poi sono divisi, insomma ci sono stati un po' di problemi, si sono persi per strada. Però un po' di anni fa, un bel po' di anni fa, scrivevano e suonavano un pezzo che si chiamava 2020. Loro sono i Timoria. Yeah. 1995, Timoria con Speedball. Poi, come dice giustamente Sasso, si sono persi per strada in realtà, perché già Età Beta del 1997 lasciava un po' a desiderare. C'erano un po' di stili un po' confusi, mischiati. Mi scrivono da MSN che cosa mi chiedono, che cosa io stia dicendo. Effettivamente non so, io ho parlato liberamente a braccio, non so neanche quello che ho detto prima di introdurre i Timoria. E poi questa è un'altra, diciamo, chicca se vogliamo, però tamarrissimo, cioè non perché mi piacciono, perché un po' per riderci un po' su. E nello stesso periodo più o meno uscì un altro gruppo che tentò la scalata al successo, e più o meno, perché non mi ricordo l'anno, quindi sempre la segretaria che sta lì sempre a puntualizzare, più o meno uscì un altro gruppo che tentò la scalata al successo sfruttando lo stesso genere, diciamo, più o meno grunge, e arrivarono anche a Sanremo. Quindi vabbè, ma a Sanremo all'epoca qualcosa di interessante arrivava. Poi ascolteremo anche un altro gruppo che andò a Sanremo, che ovviamente lì non so se non vinse niente. Non vinse niente, però fa il premio della critica, ovviamente. Il premio della critica lo si dà giusto il contentino. Stai dicendo? Io niente. No, perché ti eri avvicinato al microfono. No, assolutamente. Allora, in adorazione stavo ascoltando. Addirittura, vabbè. Allora, quest'altro gruppo, un po' per sorridere, se ve li ricordate sempre, cantavano L'uomo di cartone. Non ce la faccio neanch'io. Non ce la faccio. Fanno allora, cagaro che no, ma io lo so benissimo. Però non ce la. Cioè, era così, giusto per dare uno spunto. Soprattutto per farvi pensare sul. No, hanno avuto manco la decenza di mettere il nome tutto per intero. No, hanno messo solo. Vai a sapere che significa le lettere puntate. Non so puntante, veramente. È proprio dammo così. D-H-A-M-M. È una parola troncata a metà, scusatemi. No, comunque è qualcosa che non è arrivato a buon fine. Sicuramente. Si è spezzata a metà che non ha senso un po', sì. Riflettono se stessi. Vabbè, allora, riprendiamoci un pochino, direi che è il caso. E ci siamo depressi un pochino, vabbè, ma era un po' per Spoonman. Scherzare. Con Spoonman. No, Spoonman no. Però decidete voi, vai. Dai al microfono sempre. Cioè tu lo punti verso l'altro e parli tu, non si sente. No, ragazzi, lo... per i ragazzi stanno ascoltando alla radio. Che sì. Stamattina mi hanno dato alle... microfono. Ti hanno detto ti hanno dato a leggere una cosa sull'uso del microfono. E ho preso al contrario, come da quando mi ricordo io, dalle elementari. Leggevo una cosa e capivo il suo opposto, dagli anni 90. Fatto degli anni 90 io che... che io... che non ve lo sto qui a dire. One Dimensional Man. Stavo parlando appunto di One Dimensional Man e tu stai raccontando una cosa, giusto? Un aneddoto riguardo ai One Dimensional Man. Tu lo sai, cioè io con te sì, no, me l'ho dimenticato. Vedendoli live una sera all'Alfeus ho potuto notare le incredibili propensioni autodistruttive, sì, del cantante che mentre cantava, mentre suonava il basso, vomitava. Mai vista una roba del genere, ho visto cantanti veramente ridotti male, ma come questo qua, mai visto, veramente. Ma non so se fare un plauso a lui oppure se buttargli merda addosso, però forse gli... che se lo merita, insomma, rimasto in piedi. Beh, ha mantenuto uno show. Senti, Massimo, e dopo facciamo un plauso. Sì, facciamogli un plauso, cazzo. Bisogna mandare avanti la gente sincera, genuino almeno. Sì. Più genuino di lui, nessuno. Niente. Vabbè, insomma, ricordando un po' di altri gruppi un po' tamarri, di cose che sono uscite, su cui ci si ride sopra, insomma, Sì, Robin il Vecchio è morto, no, ma soprattutto alcuni pezzi vengono passati per ridirci un po' su. Comunque i One Dimension Man sono tornati, hanno fatto qualche concerto a fine 2000. Quindi ancora ci danno. Questo vuol dire batterista nuovo che suona con loro. Il batterista dei Mesmerico di Napoli pure loro, mi sembra. Hanno fatto tutto You Kill Me più vari bis. Insomma, nonostante il successo del Teatro degli Orrori, comunque esistono ancora i One Dimensional Man, meno male. Quindi se un altro gruppo degli anni 90 è tornato indietro, qualcosa significa, insomma. Yes. Qualcosa vuol dire. Poi, che c'entra Saturnino? Saturnino è il bassista di Giovanotti. Così, tirato fuori, nomi a caso, parole. Ma chi? Chiamavamo così. Ah, sì, sì, può, sì. Può essere, sì, sono palati tutti e due, quindi. Eccolo, trovato il collegamento immediatamente. Vabbè, allora, Robby il Vecchio prima aveva chiesto sulla scia dei Dam, quindi di gruppi che sono arrivati abbastanza improponibili, che però sono spuntati a Sanremo. Chi c'è? Ma è sicuro che era anni 90. 80-90. Addirittura. Ma chi anni 90? Cioè, tu ti ricordi quei tre anni, ti ricordi? No, loro venivano un po'. No. Fammi capire. Vabbè, lui, vabbè. Lui è Robby il Vecchio. Lui è Robby il Vecchio. Quindi era già vecchio a tre anni. Comunque, diciamo che hanno vissuto tra gli 80 e i 90. Cioè, invece di cercare e verificare. Manda il pezzo. Mandiamo il pezzo. E loro sono. C'è stato, tra l'altro, prima un Chucky ha avuto un po' di problemi, visto i nomi, l'assonanza con i nomi. No. Di che stanno parlando? Non lo so. Certi giorni non so cosa fare. Il telefono non squilla, nessuno mi viene a cercare. Prendo la macchina e comincio a girare su e giù per i paesi, sperando di poterti incontrare. E vado su, su, su, e vado giù, giù, giù, e vado su, su, su, e vado giù, giù, giù, e poi ancora su, su, su, e poi ancora giù. Ho il morale alle stelle, certi altri odio anche quelle. Un attimo prima son felice e faccio il pazzo, un attimo dopo mi son già rotto il capo. E vado su, su, su, e vado giù, giù, giù, e vado su, su, su, e vado giù, giù, giù, e poi ancora su. Ancora giù, giù, giù, su e giù, su e giù, su e giù, su e giù. Strano io, strana questa vita, questa cosa qui non l'ho mai capita. Strano io, strana questa vita, ma l'importante è che oggi sia una bella giornata, sia una grande giornata. No, niente, tagliamo anche questo perché mancano solo i Gialisse stasera. I Gialisse ci stavano. Umidi parole. Ole. Erano vinto il festival, era il capellone lui. No, lei aveva i capelli lunghi forse. E lui era pelato. Non lo so, comunque uno suonava la tastiera e l'altra cantava. E hanno vissuto poi Gialisse di rendita con i diritti della canzone. Come erano con i West Rise, spacciavano per fratelli, non si capiva. Ospitate alla vita in diretta a palla per i successivi 10 anni. No, ogni anno gli fanno la, il collegamento con la vita in diretta. Scusi, io non ti ho seguito proprio. Ho evitato proprio di seguirti. Duo incredibile, amazzonico. Teorias. No. No, niente, vabbè, ovviamente sono cose che non potete capire. Però sull'onda delle stronzate, dell'entusiasmo, delle stronzate a manetti, non so più come gestire la situazione, sinceramente. Tagliamo. Non andiamo a dormire perché c'è gente che si è appena collegata. Quindi gli spettatori e gli ascoltatori aumentano. Grandi. Quindi ascoltiamo un altro pezzo tamarrissimo, però bello. Questo è bello, bellissimo. Yeah. È bello, bello. Quando ti vedo un altro pezzo scelto da Robby il Vecchio. Vergognati. Vergognati veramente. Vergognati veramente. È stato un calo pauroso in quest'ultima. Ma in realtà, visto che Radio Noise finisce alle... caso si chiama Naftalina. Sì, infatti. No, ma visto che Radio Noise finisce alle 11:30, questo in realtà è un altro programma. Davvero. Questo è Radio Trash. Stasera Radio Trash. Si mette gli armadi delle... Sì, esatto, esatto. Esattamente quello. Esattamente quello. Va bene, noi siamo, abbiamo finito. Chiudiamo qui questa puntata un po' strana, un po' tamarra, anche no, molto trash. E in realtà era per ripercorrere un po' gli anni 90, per ascoltare qualcosa di qualità, ma anche qualcosa di brutto che è stato in quegli anni, perché comunque si è servito per farci capire che certe cose non vanno suonate. Non certi generi, certe cose non vanno suonate. Vabbè, ovviamente un sacco di altri gruppi sono passati in secondo piano, perché chiaramente sennò dovevamo stare qua almeno 6 ore, ma non mi sembrava il caso. E quindi io ringrazio chi è stato in ascolto dall'inizio, chi è entrato dopo, chi ci ha ascoltato un po', insomma, chi ha ascoltato ciao comunque stasera Radio Noise. Ciao ragazzi, buonanotte. Ringrazio Mr. Chucky, ringrazio Mr. Wolf. Keep listening us. Che detto? Keep listening us. Continuate a sentirci, cazzo. Sì, adesso ho capito, adesso keep ho capito. Listeners. Salutiamo Snoop Dogg pure. Salutiamo Snoop Dogg perché, vabbè, c'è stato un piccolo incontro con Snoop Dogg un paio di giorni fa e non è una cazzata, vi assicuriamo. I potenti mezzi di internet hanno fatto sì che... Sì, sì, è stato possibile incontrare Snoop Dogg, vabbè. Poi noi, Mr. Chucky, adesso ti racconteremo. Quindi salutiamo Snoop Dogg e ringraziamolo di averci regalato 10 minuti di felicità, diciamo. Four Sizzle ci ha scritto. Vabbè, comunque, ringrazio Robby il Vecchio. Ringrazio le cheerleaders. Ringraziamo l'ottima torta alle mele della cheerleaders. Ci sentiamo un gruppazzo. Un gruppazzo. Vi ricordo Radio Noise ogni lunedì sera alle 21:30 fino alle 23:30. Però solitamente sono puntate un po' più serie. Questa sera abbiamo scherzato un po', però abbiamo ascoltato anche musica valida, nostrana degli anni 90, che adesso non c'è più. Che manca tantissimo. Questo è un altro gruppo validissimo, che in realtà poi si è perso perché forse non capito, probabilmente. Grazie a tutti di essere stati in ascolto, buonanotte e ci sentiamo lunedì prossimo, ciao. Channel. Zalagi.